Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Carolina ha solo 14 anni quando diventa vittima dei cyberbulli. La bersagliano ogni giorno sulla sua bacheca e su tutti i social network e lei, troppo giovane e troppo fragile, non riesce a difendersi. Quella notte del 5 gennaio a Novara, Carolina è appena tornata da una festa. Sa che qualcuno l'ha filmata, forse mentre era un po' brilla. Sa che quel video finirà in rete e saranno di nuovo insulti, giudizi, cattiverie. Dentro di lei scatta qualcosa. Apre la finestra e si butta. Lascia solo una lettera, Carolina, contro quei bulli che l'hanno tormentata. Le parole fanno più male delle botte, scrive a mano su un foglietto di carta. 8 ragazzi sono indagati per istigazione al suicidio. E anche adesso, a un anno dalla sua morte, questa ragazzina di 14 anni... Questa è una storia raccontata da Lucignolo, di un noto fatto di cronaca, al quale potremmo associarne tanti altri, se non fosse poco consigliabile insistere molto sui casi di persone che si tolgono la vita. Però il problema di ragazzi, di adolescenti soprattutto, vittime di quella composta e variegata azione bellica che viene sintetizzata sotto il termine cyberbullismo, è molto ampia. Sono ragazzi fragili, sono ragazzi che sicuramente non hanno strumenti e spavalderia sufficienti a arginare quella che è la legge del branco, sono ragazzi molto probabilmente con alcune loro particolarità, singolarità, a volte anche talenti, e fanno sì che il branco, che in realtà richiede soltanto l'omologazione, in nome di questa omologazione richiede sempre una vittima sacrificale, un capro espiatorio, è sempre la persona diversa, la persona più debole, la persona che ha delle eccentricità, che il branco non vede come un valore ma vede come un limite, come un bersaglio, è ciò che solidifica il branco. Il cyberbullismo è legato agli strumenti contemporanei di socializzazione, che sono le interfacce che noi abbiamo, le nostre protesi emotive, i computer, i telefoni, gli smartphone, strumenti che l'età, la fascia d'età più suscettibile a subire fenomeni di cyberbullismo usa in maniera precipua. Quindi quello che è un fenomeno vecchio e antico, tutti abbiamo conosciuto i bulli, tutti abbiamo subito la violenza dei prepotenti, tutti abbiamo conosciuto la dura legge del branco, dall'asilo alle scuole elementari, alle medie, per qualcuno anche negli anni successivi, per chi al tempo che si faceva la naia ha fatto la naia, chi l'ha subito poi nell'ambiente di lavoro, chi lo subisce continuamente. Però quello che è un fenomeno probabilmente vecchio sono regole di assemblaggio violento e probabilmente arcaico della società, assume un fenomeno molto particolare quando gli strumenti che velocizzano, amplificano e moltiplicano gli effetti di ogni relazione che noi usiamo con tranquillità diventano strumenti di tortura. Il cyberbullismo è a livelli di punta arrivato anche nel nostro paese, perché siamo un paese probabilmente non molto digitalmente avanzato, ma molto fantasticamente impegnato nell'uso delle protesi emotive. Abbiamo non so quanti, se 2 o 3 strumenti per comunicare a testa dell'ultima generazione. Su questo si sta muovendo una campagna proprio in questi giorni, l'avrete visto, alcune televisioni specializzate a un target giovanile hanno messo in campo cantanti, artisti, presentatori che impersonificano le parti di alcune vittime del bullismo. Alcune squadre di calcio molto importanti, come anche la Juventus, ad esempio, partecipano alla campagna Il bullo è una palla, che coinvolge i calciatori, sono gli idoli per eccellenza, nel dimostrare quanto sia arretrato, arcaico, inutile il perseverare in questa antica maniera di affermare se stessi. Questa mattina vorremmo dedicare la puntata anche noi, dare il nostro contributo a questo momento di sensibilizzazione contro il cyberbullismo. Chiunque abbia storia in famiglia, abbia sentito serio, vicino, costante il pericolo, i propri figli o le persone che conosce, chi lo stia subendo e ascolti questa trasmissione, questa è la mattina per far sentire la sua voce. 800 24 00 24. Cyberbullismo. Il 23,6% degli adolescenti intervistati da Telefono Azzurro ed Eurispes dichiara di aver trovato online pettegolezzi o falsità sul proprio conto. A un adolescente su 5 è capitato di trovare in internet proprie foto imbarazzanti. Un altro fenomeno in crescita tra i ragazzi, soprattutto di 16-18 anni, è il sexting. Il 12,3% degli adolescenti dichiara di aver inviato SMS o MMS a sfondo sessuale e il 25,9% di averli ricevuti. Se un ragazzo su 2 non ci vede niente di male, quasi una ragazza su 4 lo fa perché gli è stato richiesto dal proprio ragazzo. La maggior parte degli adolescenti intervistati si diverte nel ricevere questi messaggi. Al 20% delle ragazze però dà fastidio. 800240024, questa è una forma anche abbastanza segnata, perché poi gli strumenti di comunicazione si moltiplicano, crescono, gli strumenti, le applicazioni si perfezionano, e quelli che sono strumenti fantastici per comunicare in maniera sempre più veloce, sempre più massiva, diventano armi di tortura più raffinate, usate come oggetti contundenti. Professor Federico Tognoni, buongiorno. Buongiorno. È psichiatra, si occupa di dipendenza da internet e fenomeni legati al cyberbullismo, è al Policlinico Gemelli di Roma, è autore di un manuale molto interessante e utile di facile consultazione, Cyberbullismo, come aiutare le vittime e i persecutori, edito da Mondadori. Allora, dottor Tognoni, innanzitutto dal suo osservatorio, il fenomeno è un fenomeno che veramente sta rasentando i livelli di guardia, investe tutte le fasce e tutte le fasce, diciamo, sociali, e una fetta di persone ha uno di spettro molto ampio, o c'è un'amplificazione dei media? Ho sempre questa possibilità, e diciamo è ancora entro dei termini di non particolare allarme. Ma l'amplificazione dei media bisogna sempre darla un pochino per scontata. Lei ha fatto un'analisi molto esaustiva di tutta la questione, nel senso che il bullismo è un fenomeno che c'è sempre stato e si declina in tanti modi, no? Sui luoghi di lavoro, col nonnismo nel servizio militare, eccetera. Quello a cui assistiamo oggi è sicuramente un'espansione degli effetti collaterali del bullismo, dovuta alla natura stessa delle relazioni online, che hanno un po' cambiato il modo di vivere gli istinti, il ruolo della visibilità e dell'immagine, e quindi hanno acuito quelle che sono le esperienze di vergogna, che dobbiamo ricordare tutti che in adolescenza sono dei veri e propri breakdown, dei crolli di un'identità che si sta formando e che in quel momento crolla di colpo. Diciamo che mentre una volta l'incubo terminava con l'uscita, con la campanella di scuola, si tornava a casa, rimaneva la traccia interiore, ma oggi è amplificata per tutta la giornata, per tutto il tempo concreto della vittima. Ma guardi, direi che il passaggio tra un semplice atto di aggressione e uno stato, un'esperienza di persecuzione, che è quella che poi provoca il suicidio, atti autolesivi o i ritiri sociali, è dovuta proprio al fatto che non c'è via di fuga dal web. Mentre io da piccolino subivo una vessazione, potevo al limite cambiare classe, scuola o città, tutti conosciamo il volto della ragazzina schiaffeggiata a Belluno o quello che ha fatto poverina a Novara, eccetera. Anche se ce lo dimentichiamo, la ragazzina di Belluno, se si trasferisce a Palermo, dentro di sé crederà di essere vista, per cui non ci si libera da questo tipo di esperienza di vergogna. Teniamo presente che quando le brutte figure le abbiamo fatte noi alle elementari, quelle brutte, la più brutta, abbiamo contato nel nostro immaginario quante persone ci avessero potuto vedere. E pensi, io me ne ricordo una ancora di terza elementare, ancora mi brucia dentro, pensi un po'. Non c'è dubbio, ecco, allora lei ha colto perfettamente che cos'è la vergogna, una cosa a cui non c'è riparazione, ai sensi di colpa sì, alla vergogna no. Lui rimane, allora laddove incontra una struttura particolarmente fragile, e guardi che di strutture particolarmente fragili, cioè io dico sempre questo, che il vero bullo è il genitore assente, nel senso che i bulli o le vittime sono tali ancor prima di incontrarsi. Un ragazzo è vittima non perché incontra il bullo, che incontra, perché è quasi una dimensione complementare, ma è vittima da prima, se non altro perché quando comincia a essere bullizzato, le situazioni poi che esitano in suicidi o altro impediscono a questi ragazzi, cioè, diciamo, una vittima vera non ha lo spazio per confidarsi con i genitori. Guardi, lo dico anche per qualche esperienza che conosco bene, È difficilissimo da individuare. Molte volte un ragazzo che sta silenzioso, sembra depresso, non parla, e tirarglielo fuori con le pinze, uno dopo molto tempo riesce a capire c'è un problema che sovrasta la capacità e la voglia di comunicarlo ai genitori. Un secondo, sentiamo qualche ascoltatore. Ricordo che il professor Tognoni ha fatto un manuale, un vademecum, dove spiega esattamente, oggi possiamo soltanto lambirlo, quelle che sono le fasi dell'individuazione, le fasi di compensazione della famiglia e gli interventi concreti da poter fare. Patrizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, e auguri per la trasmissione, complimenti. Senta, mi sente? Sì, l'ascolto. Senta, io non penso esattamente come al dottore, che cerchiamo sempre delle scuse per trovare quello che può diventare un bullo, mica un bullo. Io anch'io quando ero piccolo a scuola, qualche volta l'ho subito da qualcuno. Vorrei tanto ritornare a scuola per fargliela pagare a tutti, col carattere che ho adesso, che mi sono formato. Io dico una cosa, che non bisogna risparmiargliele tante e trovare sempre scusanti. Se succede a una delle mie figlie, oggi come oggi, non avranno scampo assolutamente. In che senso non hanno scampo? Oppure prendo uno ad uno. L'arrestano, ecco. Sì, ha risolto che va... Lo sento, pazienza, sono cose più importanti di essere arrestati. Sì, il suo è un atteggiamento, un atteggiamento folle anche. Beh, i suoi figli con un padre arrestato e con un bullo lesionato non risolvono il problema va affrontato. Mi sembra un po' sommario il suo punto di vista, anche se mi rendo conto che l'istinto potrebbe essere quello, ma siamo persone civilizzate e proprio per questo usiamo strumenti di civilizzazione anche per risolvere problemi che affondano le radici in comportamenti molto arcaici. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io la chiamo perché sono un genitore e un insegnante, e come genitore mia figlia ha vissuto un fenomeno di bullismo e di cyberbullismo che abbiamo poi risolto, speriamo, con la scuola. Ecco, mi dica il contesto in cui ci si muove, visto che è un'esperienza. Cosa accade? L'habitat in cui si verifica questo tipo di problema, come reagisce una volta che lei individua il problema? Ma dunque, la scuola ha reagito molto bene, cercando in qualche maniera di tamponare con delle circolari, facendo diciamo delle lavate di capo, però credo che sia un fenomeno culturale. Io la chiamo per un altro motivo che secondo me è più grave. Nella scuola dove insegno, quindi da insegnante, c'è stato un fenomeno di bullismo piuttosto grave, anzi direi abbastanza grave, e 3 di questi bulli in un convitto sono stati sospesi. La cosa più grave ancora è che, parlando di quanto è accaduto nella classe, parliamo della classe quinta, quindi ragazzi di 18 anni, hanno minimizzato, addirittura hanno giustificato, perché secondo loro... Ma chi, i suoi colleghi insegnanti? No, gli studenti stessi, perché secondo loro essere bulli, cioè il bullo rende più forte il carattere della vittima, e in qualche maniera lo fortifica. Vabbè, questa nemmeno nella legione straniera degli anni 40 si diceva questa roba, sì. Marte, perché loro stesso, addirittura uno di questi bulli, sospeso per la seconda volta, e tra l'altro con pendenze penali, si è candidato come rappresentante di istituto, quindi voglio dire, è diventato quasi, non dico un eroe, però... Si presenta con la patente di maschio alfa e quindi vincente, una società in cui non si cerca altro che la persona più forte a sopraffare gli altri. 800240024, il nostro seppur breve contributo a capire meglio e a prevenire e a far comprendere agli autori attivi del cyberbullismo che è un comportamento che non fa più parte della modernità. Non puoi essere un ragazzo che appartiene a tutto diritto all'era digitale se usi così male gli strumenti che ti vengono messi a disposizione per evolverti. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo lasciare una piccola osservazione. Con gli strumenti che abbiamo adesso tecnologici, che ci permettono di commentare senza ricevere la reazione in tempo reale della controparte, perdiamo anche la possibilità di vedere la reazione e quindi di capire se un nostro commento, una nostra affermazione è sbagliato o meno. In un'età di formazione, diciamo, questo concorre a, diciamo, fare slittare la percezione che qualcosa sia giusto o sbagliato dire nei confronti di un'altra persona. Dice, il bullo tradizionale dava un pugno, vedeva uscire il sangue, vedeva piangere la vittima, in qualche maniera il branco intorno a lui poteva avere dei moti di umanità e di comprensione dell'ingiustizia. Oggi il bullo si limita a mandare una foto, a fare un post, nessuno vede l'effetto. Esatto. Sì, anche forse più funziona questa cosa, ha più ragione in un potenziale bullo, in qualcuno che deve capire quali possono essere i limiti di un commento o di un... Io sull'inconsapevolezza del male che fa del bullo ho qualche dubbio. Il bullo sa perfettamente, riconosce lo strumento, sa quanto nocerebbe su lui una cosa del genere. Lo fa in maniera spietata, ma lo fa in maniera asettica. Non si sporca le mani con il sangue della vittima. Simona, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei raccontarle la mia di esperienza, che è stata vittima mia figlia l'anno scorso, 12 anni. Allora, ha iniziato praticamente tutto su WhatsApp a scuola. Uh-huh. Io le dico la sincera verità, altro che noi genitori capiamo, noi non capiamo proprio niente. Uh-huh. Io mi sono accorta dopo 2 mesi in cui mia figlia dava di matto, però legavo tutto all'età, all'adolescenza. Sì, succede così infatti. Ecco, se la prendeva con mio marito. Mio marito era il bersaglio. Finché a forza, una sera sono riuscita a farla parlare e mi ha raccontato tutto quello che le stava succedendo. Cioè? Appunto l'avevano presa di mira, insulti, parolacce, prova a parlare, se tu parli, ti aspettiamo fuori da scuola, te le suoniamo, ma parole pesantissime. Come è andata a finire la storia? Mi dica la fine. È andata a finire che fortunatamente lei ha registrato tutto, ha portato il telefono a scuola alle insegnanti, ha fatto sentire tutto, le insegnanti a sua volta hanno registrato il tutto. Erano messaggi vocali su WhatsApp? Sì. Ha chiamato i genitori con questi ragazzi, loro hanno cominciato a negare, gli insegnanti gli hanno detto non potete negare perché qua c'è tutto registrato. E la scuola che provvedimento ha preso? Nessuno. Molto, molto chiaro. Allora, Federico Tonone, ricordo, psichiatra, si occupa di dipendenza da internet, è specializzato proprio a fenomeni legati al cyberbullismo al Policlinico Gemelli di Roma, ha scritto un manuale importante, Cyberbullismo, come aiutare le vittime e i persecutori, editore Mondadori. Allora, queste due storie dovrebbero dare qualche elemento di soluzione, visto che ci avviamo verso la fine, vediamo di capire. In questo caso la scuola era obbligata a prendere dei provvedimenti? Legalmente non lo so, nella scuola di mia figlia è successa una cosa del genere, di mia figlia più grande, e tutta la classe è stata convocata e poi paradossalmente mentre si discuteva, io parlo di scuole medie, sulla bontà o meno dell'essersi riuniti, la potenziale vittima, il potenziale persecutore giocavano a ricreazione felici, per cui bisogna sempre stare attenti, perché abbiamo sentito anche altri genitori, per cui la tentazione di proiettare delle nostre cose sulle questioni dei figli è sempre presente. Comunque lo dico, dal punto di vista legale, qualsiasi azione violenta fatta su mezzi informatici valgono le stesse norme, valgono nel mondo reale e vale, allora, come insulto la scuola, o anche i genitori potranno procedere, i genitori con una denuncia, se non l'hanno fatto la scuola probabilmente poteva non far altro che appoggiare la denuncia ai genitori. Si vede che i genitori non hanno denunciato e la scuola non può farlo se non lo fanno i genitori. Io consiglierei sempre di denunciare in casi così efferati, così anche i ragazzi, tanto nessuno va in galera di minorenni, ma hanno comunque l'idea che la giustizia esista. Poi andando avanti, il punto di vista dei genitori. Sì, allora la tentazione appunto di proiettare delle nostre questioni sulla vita dei figli è sempre presente. Nel caso l'ultimo che abbiamo sentito, dove la ragazzina poi alla fine è riuscita dopo un pochino di tentativi a confidarsi con la mamma e poi conseguentemente anche col papà, è esattamente quello che bisogna fare. Non è molte volte, professore, che il fatto che molte ragazzine soprattutto si vergognano di dirlo, perché in gioco è anche la loro sfera privata, magari foto che sono fatte fare con i loro fidanzati, cose del genere, capita delle sciocchezze da ragazzi. Le persone che poi si sono tolte la vita o hanno fatto altro erano afflitti da profondissimi sensi di colpa, cioè dall'idea che si venissero a sapere delle cose, però qui poi a monte vuol dire che c'è un rapporto, come dire, che ha un pochino di difficoltà con i propri genitori. Teniamo presente. Ma nel caso che un ex fidanzatino che mette delle foto intime di rapporti che sono normali naturalmente fra ragazzi, può dare un serio senso di angoscia a una ragazza che i genitori lo sappiano. Questa è la leva ricattatoria. Sì, ma soprattutto oggigiorno il profilo sul social network ha un po' sostituito la costruzione, no, di come ci immaginavamo noi nei sogni ad occhi aperti quando uscivamo da adolescenti che usciva un po' il romanzo di noi stessi, no? E noi credevamo di essere quello, però potevamo recedere, per cui io magari mi immaginavo in un certo modo, mi proponevo in quel modo a una persona con cui mi faceva piacere uscire, ma il luogo di questa costruzione un po' ideale di me stesso era il mio immaginario. C'è un consiglio concreto, professor Tognoni? Sì. Se uno ha dei sospetti, vede un ragazzo un po' silenzioso, un po' taciturno, un po' strano, per qualcuno, un aiuto per poter intervenire, una terza parte, chi è che si occupa in Italia di queste cose? Ma dunque, la polizia postale sappiamo che è molto attiva, ci sono delle scuole e degli insegnanti che sono altrettanto attivi, ma i primi e le persone che conoscono meglio di qualsiasi altro i figli sono i genitori, per cui io credo che non ci sia bisogno né degli psicologi né degli psichiatri per rendersi conto quanto un figlio non è felice. È ovvio che l'adolescenza è un momento difficile, stabilire quanto poi un bambino o un ragazzino debba essere controllato, cioè noi controlliamo i figli nella misura in cui non ci fidiamo di loro perché non li conosciamo. Diciamo, il malessere tipico adolescenza è una cosa, un malessere indotto da circostanze violente è un'altra. Ai genitori l'idea e la cultura per approfondire con strumenti giusti anche questa fase difficile, ricordo cyberbullismo, come aiutare le vittime, di Federico Tognoni, Mondadori. A domani.